Domanda molto semplice: quanti insulti vi beccate anche ingiustificati? Gli insulti sono parecchi, perché chiaramente quando ci metti la faccia il primo schiaffo che vuole è tuo, questo è sempre così, insomma, in particolare in questo momento d'antipolitica è logico che metterci la faccia significa anche beccarsi le pacche agli amici miei, diciamo così, insomma. Alcuni insulti vengono solo per il fatto che tu sei un politico e in particolare un parlamentare, categoria più odiata del momento, per cui anche se parli di calcio, a me è capitato, vieni poi azzittito prima con minacce fisiche e poi comunque con epiteti tipo magnaccia, zitto, onorevole, mangia pane a tradimento, eccetera eccetera, insomma vi appenderemo ai forconi e cose di questo tipo qua. La cosa migliore che mi hanno detto nell'ultimo periodo a livello di complimenti è torna a fare il giornalista, che insomma questo era è quando vogliono trattarmi bene, ecco, come dire, ti risparmieremo dalla nostra furia, tu però vattene via dal Parlamento. E poi ci sono invece altri tipi di troll che secondo me però sono peggio degli altri, perché sono quelli ideologici, cioè se non la pensi come loro diventi vittima proprio di uno stalking, diciamo così, insomma, da un punto di vista digitale. Cioè mi è capitato più volte, per esempio con i NoTav capita moltissime volte, perché lì hanno poi uno stalking organizzato, diciamo che uno ti prende di mira e gli altri 15, 20, 30, 50 che seguono quel giro poi cominciano a prenderti di mira. Mi è capitato per aver detto, per aver manifestato delle mie perplessità sulle adozioni di bambini a coppie omosessuali, pur essendo favorevole alle unioni civili, mi sono chiesto in maniera molto pulita, tranquilla, no? Se i bambini avessero un diritto ad avere una mamma e un papà, e sono stato massacrato anche là, perché poi c'è quello che ti prende di mira e quindi ci fa il post sul suo blog anche per farsi un po' di pubblicità, e gli altri che rilanciano il post e quegli altri ancora che ti coprono di insulti, eccetera eccetera eccetera. Quindi insomma questa è una cosa che avviene abbastanza di frequente. Ma a me la cosa forse più grossa che mi è capitata è stata che una di queste persone che mi avevano preso un po' di mira per le mie idee, ed era una persona che contestava la mia visione sulla cittadinanza ai figli degli immigrati, addirittura mi hanno inseguito poi nelle mie conferenze, cioè sapendo che io andavo all'Università di Padova a parlare di nuovi italiani e di figli degli immigrati, addirittura hanno scritto al preside della facoltà chiedendogli di non ospitarmi, perché insomma quelli erano punti di vista sbagliati, no? Quindi diciamo che ci sono vari tipi di troll, se vogliamo chiamarli così. A me non stupisce mai il confronto e non mi dispiace mai, quello che mi dispiace a volte è la violenza che viene utilizzata, violenza che può essere naturalmente anche verbale, no? Non deve essere per forza fisica. Devo dire che però ci metto una buona scusante, perché la classe politica, quindi anch'io che purtroppo ne faccio parte in tutto e per tutto, dico purtroppo perché questa classe politica certamente non mi rende fiero dell'appartenenza, beh, questa classe politica non sta facendo niente per conquistarsi il consenso vero, insomma, cioè, non credo che ci sia nessuno che ci vuole bene, ecco. Anche se magari qualcuno ti può stimare personalmente, però credo che in pochi davvero ci vogliano bene. Su certe cose c'è chi ci vede addirittura una sorta di strategia organizzata, cioè al di là, per esempio, come si diceva, in OTAV, ma non solo, per esempio. Beh sì, ci sono diversi gruppi che comunque chiaramente insomma si alimentano anche con questo, no? Ripeto, a me è capitato poi, ad esempio, capita a volte anche di commettere alcuni errori, alcune imprudenze, no? Anche su Twitter eccetera, ma è naturalmente normale quando ci metti la faccia. E lì se diciamo viva voce ti possono essere anche perdonati, perché poi c'è il colloquio, c'è il fatto che tu li spieghi, fai eccetera, beh sui social network è più difficile, perché quello che metti comunque rimane sempre e viene memorizzato, no? Sappiamo come funziona, insomma, cioè, tutto è duplicabile, tutto può essere ripescato in qualsiasi momento eccetera eccetera, quindi devi stare sempre attento a quello che scrivi. Cioè, io ho imparato nel corso dei mesi a rileggermi un tweet almeno 3 o 4 o 5 volte prima di pubblicarlo, e dico che ogni 3 tweet che io scrivo un paio li butto, perché magari anche se mossi da buona fede potrebbero essere letti male e poi oggetto di strumentalizzazioni. Siccome l'ultima cosa che voglio è la crociata contro tutti i politici, indipendentemente dalla loro anima, dal loro cuore, dalla loro testa, e allora insomma mi autolimito certe volte, il che non fa bene, però come posso dire, legittima difesa.